A scuola dal marchese Basilio Puoti. Fin nella pronunzia ci perseguitava il marchese, e lo sanno soprattutto i calabresi, ai quali non dava tregua. Le e lo, larghi o stretti, era il ponte dell'asino, e ti veniva il sudor freddo quando il marchese ripigliava la tua parola e contraffaceva la tua pronunzia. Questa severità recava ottimi frutti presso tutti i giovani giunti di fresco dalle province, con gli orrori della loro pronunzia, con ortografia conforme, con abitudini di scrivere viziosissime e con sconce e barbare maniere di dire che il marchese chiamava frasi da notaro. Francesco De Sanctis.